9 in punto. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno e benvenuti a 9 in punto. Vi trasmettiamo oggi da Santa Margherita Ligure, dove si svolge il convegno dei giovani imprenditori di Confindustria. Quest'anno si riceve il titolo è Scateniamoci, e a illustrare il gioco di parole, appunto, una catena spezzata. Insomma, liberare l'Italia, questa è sostanzialmente l'idea. Un paese incrostato, insomma, questo ve lo raccontiamo tutti i giorni, naturalmente. Abbiamo deciso di prendere uno degli elementi che verranno dibattuti in questa giornata, ed è il tema delle diseguaglianze. Come sapete, altre volte ce ne siamo occupati un po' più nello specifico e un po' più andando a parlare di una questione di redditi, insomma, della distanza di reddito. Ne abbiamo parlato quando abbiamo fatto una puntata sulla distanza di reddito tra i manager, tra i grandi manager e i livelli più bassi, naturalmente, della catena produttiva. Ebbene, oggi invece lo vogliamo affrontare da un altro punto di vista, perché vi direte, ma insomma, ci sono un convegno di giovani industriali, di industriali, che parla di disuguaglianze. Ebbene, in questo caso stiamo parlando soprattutto, ma non solo di quelle, di disuguaglianze generazionali. Siamo figli, lo sono anch'io, di una generazione sostanzialmente di ipergarantiti da molti punti di vista, dal punto di vista, tanto per dire, dei contratti di lavoro, oppure per esempio della pensione, pensioni generose, calcolate col sistema retributivo, mentre invece noi andremo in pensione chissà quando col sistema contributivo, che hanno potuto beneficiare soprattutto di una prospettiva di futuro, evidentemente anche di crescita economica buona, mentre invece noi, come dire, ci troviamo in un paese un po' più complicato. Di questo vogliamo parlare con l'autore di un libro, Chi troppo, chi niente, Emanuele Ferragina, al quale do il buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Che insegna politiche sociali all'Università di Oxford, e forse ai microfoni di Radio 24 l'avete già sentito, perché è uno dei tanti cervelli in fuga che il nostro Sergio Nava racconta con il suo Giovani Talenti. Saluto anche Marco Gai, che è presidente dei Giovani Imprenditori del Piemonte. Buongiorno. Buongiorno a te. Allora, iniziamo da questo, Ferragina. È chiaro, no, che il libro si apre con un quadro di disuguaglianze più ampio, no? Dando un'idea anche della forbice di reddito, delle forbici di reddito che esistono in questo paese. E però è vero che c'è una questione eminentemente generazionale da questo punto di vista. Sì, sicuramente. Uno dei capitoli del libro ha il titolo emblematico, il prezzo del passato. Vengo subito a quello che diceva sulle disuguaglianze generazionali, che sono probabilmente la più importante delle disuguaglianze che ci troviamo a combattere, e nel libro c'è una proposta chiara. Prendere un pezzo dei soldi che stanno nelle pensioni dei più abbienti, che sono state costruite col sistema retributivo. Fra l'altro c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale ieri che va in direzione opposta, della quale si può anche discutere. Prendere un pezzo di quei soldi e utilizzarli per le politiche del lavoro, per le politiche familiari e per le politiche abitative. Cioè, sostanzialmente, fare qualcosa di diverso, di più europeo, ribilanciando il welfare state, dando la possibilità anche alle nuove generazioni, ma non solo, ma con tutti coloro i quali non sono stati beneficiari di un sistema retributivo così generoso, di potersi fare una vita. E in più, questo si lega molto al tema che si discuterà oggi qui a Confindustria, ridistribuendo una parte di reddito a persone che possono immediatamente spenderlo e consumarlo. Una delle ragioni per la quale molte delle nostre imprese chiudono è perché il mercato sta sparendo, nel senso che i consumi in questo paese stanno crollando. Allora, questo il punto di vista, appunto, Emanuele Ferragina. Ci scrivete già sulla nostra pagina Facebook, ci scrive Matteo Casarin, parliamo della forbice, insomma, della forbice di redditi, una forbice che ci costringe, dice, a tagliare il cordone ombelicale col nostro paese. Ma capisco le istituzioni, e la provocazione non è male: non siamo un paese per le nuove generazioni, meglio rovinare un giovane piuttosto che due vecchi. Marco Gai, che... Meglio rovinare un giovane piuttosto che due vecchi. Credo che il discorso sia di invece lavorare in senso opposto. Capisco la provocazione, ma costruire il terreno e il contesto per i giovani perché possano serenamente diventare vecchi e perché ci sia l'opportunità di coltivare e avere un sogno, che poi è quello che, ad esempio, molti imprenditori, giovani e meno giovani, è quello che fa scoppiare la scintilla per creare e fare impresa. Bene, questo è un altro elemento che mettiamo in campo, insomma, la famosa scintilla. Io, questa è, se vogliamo, anche una mia fissazione, insomma. Io ho l'idea che piano piano quella scintilla, che è un pezzo di ciò che ha fatto grande il nostro paese, si stia progressivamente spegnendo, o si sia spenta da qualche tempo e chissà se è pronta a riattivarsi. Io vorrei però capire da Ferragni, al di là, insomma, ci ha dato un'idea di soluzione generale, se così vogliamo, di andare nello specifico, come dire, su qualche capitolo da questo punto di vista, e magari anche iniziare ad affrontare quelle che sono le idee del governo al momento. L'impressione che abbiamo, poi sentiremo oggi a Santa Margherita Ligure, ci sarà ospite il ministro del lavoro Giovannini, chiedo scusa, c'è un piccolo disturbo, ci sarà il ministro del lavoro Giovannini e sentiremo quali sono le intenzioni. L'impressione che non ci sia una politica complessiva al momento, ma l'idea di tamponare qualche emergenza. Una di queste emergenze è naturalmente la disoccupazione giovanile. Siamo a un 38,6%, senza considerare il numero di inattivi, insomma, che è enorme. Si sta ipotizzando un'idea di sgravi, appunto, per l'assunzione di giovani. Secondo lei è una cosa che può funzionare? Io ho qualche perplessità, perché come con la politica monetaria, quando il cavallo non beve, insomma, non c'è acqua da dargli sostanzialmente. Se non c'è crescita, se non c'è appunto redistribuzione in senso più complessivo, queste misure si prefigureranno come dei palliativi per tirare avanti la barca. Il problema è che la barca è in secca da 20 anni ormai, questo paese ha smesso di crescere seriamente. Io quello che propongo sul mercato del lavoro sono principalmente due cose. La prima è l'istituzione del reddito minimo garantito, cioè di dare alle persone una dignità, un livello di dignità standard che esiste in tutti i paesi europei tranne che l'Italia e la Grecia. Ma soprattutto l'altra cosa che è stata proposta su più serie, anche per esempio da Tito Boeri a gran voce sulle colonne della voce.info, è quella di creare un sussidio universale di disoccupazione, cioè sostanzialmente smettere di tamponare le emergenze con la cassa integrazione, che è un benefit passivo che non riqualifica il lavoratore, ma cominciare a pensare a delle politiche del mercato del lavoro che da un lato assistano le persone che perdono lavoro e debbano riconvertirsi a lavorare in un nuovo campo, e dall'altro siano anche attive, nel senso che mettano insieme appunto la classe imprenditoriale, chi dà lavoro e i lavoratori. Un'altra cosa voglio dire è che in questo paese è sempre molto difficile discutere di questi temi, perché purtroppo si è teso molto spesso a ragionare sul punto di uscita del lavoratore, quindi sul proteggere il lavoratore, sul non farlo licenziare, e invece non ci si è resi conto che paesi dove è molto semplice licenziare, per esempio la Danimarca, hanno poi delle politiche sociali che difendono l'individuo, cioè sostanzialmente prendono per mano l'individuo nel momento in cui c'è una crisi come quella odierna, nel momento in cui c'è un problema, prendono in mano l'individuo, lo riformano, lo aiutano a riformarsi e a rilanciarsi sul mercato del lavoro. Quindi ritengo che in Italia è il momento di fare uno scatto anche da parte delle forze. Cioè un ripensamento complessivo del sistema di welfare, esatto. Questa è la sostanza. Dal particolarismo, no? All'universalismo, sostanzialmente smetterla di fare queste politiche spaccate, frammentate, che poi non servono a migliorare il contesto del quale si parlava prima, ma delle politiche universali che ci costano allo stesso modo, perché noi, questo bisogna dirlo, di welfare spendiamo quanto la Finlandia in proporzione rispetto al PIL, e utilizzare questi soldi in maniera più intelligente per creare un contesto universale nel quale tutti i lavoratori, giovani e meno giovani, possano muoversi con più agilità. Marco Gai, un sistema di welfare da ripensare? Da ripensare, non so se da zero, ma comunque da aggiornare coi tempi che stiamo vivendo. A me piace pensare che si deve discutere di investimenti, investimenti anche in questo contesto, anche in questo caso. Quando penso agli investimenti in welfare mi verrebbe più spontaneo dire: ma perché non investiamo in politiche attive? Perché non investiamo in formazione permanente? Perché non investiamo in un avvicinamento dalla scuola al lavoro che sia sinergico e non scollegato totalmente? E poi la cosa che credo ci sia bisogno e che sarebbe strategica è avere un piano che vada al di là di cosa succede fra un anno, 6 mesi o 2 anni, ma un governo che si prenda la responsabilità di dire: per 10 anni questa sarà la nostra politica per il welfare, e fra 10 anni i governi che si susseguono, che speriamo siano 2 e non 10, abbiano tenuto fede alle promesse fatte, perché è così che si può costruire un po' di futuro e di contesto. Su questo devo dire la verità, io sono, per quanto conti naturalmente, nell'umiltà del conduttore perfettamente in linea, nel senso che gli ascoltatori che ci hanno seguito durante la campagna elettorale lo sanno, che è una cosa che abbiamo ribadito continuamente, la necessità di una visione di lungo, mentre insomma sostanzialmente si discuteva di sostanzialmente di come tagliare l'IMU, no? O da una parte o dall'altra, l'agenda era dettata da quello, mentre invece evidentemente il paese ha bisogno di uno scatto. Vorrei un altro punto, Ferragina. In realtà il primo capitolo del libro è dedicato a una cosa, un'altra cosa che c'è molto cara, che sono le professioni. L'accesso alle professioni è appunto anche là un... Anche questa questione ha un taglio di diseguaglianza generazionale, evidentemente, no? Con queste folle di ragazzi che escono da giurisprudenza e che magari vogliono iniziare a fare l'avvocato, le storie le conosciamo, che si ritrovano per anni a fare sostanzialmente un lavoro di segreteria, notifica atti, insomma qualsiasi cosa tranne l'avvocato per poter fare il praticantato e magari insomma, però sostanzialmente senza prospettiva. Da quel lato che cosa immagina? Beh, sì, è molto interessante. In Italia anche il dibattito sugli ordini professionali, come quasi tutti i dibattiti che ci sono nel mondo politico, è sempre un dibattito astratto, pro o contro gli ordini professionali. Io nel libro dico una cosa molto semplice che dicono anche molti economisti. Qual è la funzione dell'ordine professionale? La funzione dell'ordine professionale è proteggere il consumatore in mercati asimmetrici. Questo che cosa significa? Nel momento nel quale il consumatore si deve trovare ad acquistare una performance, un servizio complessi, come una consulenza giuridica per esempio, o come appunto una visita medica, non può scegliere da solo sul mercato come acquisterebbe un cacciavite o un qualunque altro bene di consumo. Allora c'è bisogno di una restrizione della concorrenza per creare delle regolamentazioni che consentano di fornire un servizio a un prezzo adeguato che soddisfi le esigenze del consumatore. Bene, in Italia gli ordini professionali, soprattutto gli ordini più potenti, sono diventati un meccanismo di conservazione della rendita di posizione degli individui che ci stavano dentro. E quindi ci sono dei numeri che insomma nel libro sono commentati, che lasciano senza parole. Se sei figlio di medico, hai 4 volte più possibilità di chi non lo è, laureato come te in medicina, di entrare nell'ordine dei medici della tua città. Allora la proposta, per venire alla proposta rapidamente, è di dire: abbattiamo tutte quelle norme all'interno degli ordini che non servono a proteggere il consumatore, cioè riportiamo, non aboliamo gli ordini professionali, ma riportiamo gli ordini professionali a fare quello che devono fare. Chi li tocca gli ordini professionali muore, lo sa, sì, Ferragina, cioè, soprattutto in Parlamento, questa è una cosa arcinota. Perché sono pezzi di alcune delle caste che dominano e tengono incatenato questo paese, però la maggior parte delle persone, questo che insomma anche i politici dovrebbero capire, la maggior parte della pletora delle persone alle quali si rivolgono avrebbe tutto l'interesse a ristabilire la funzione originale degli ordini professionali. E tutto, voglio dire una cosa, tutto quello di cui stiamo parlando, ordine professionale, sistema di welfare, visione di lungo periodo, sono tutti tenuti insieme da un'idea, che bisogna avere un principio guida. Io nel libro lo identifico con l'uguaglianza di opportunità e di condizione, ma qualunque altro principio voglia essere portato avanti da una forza politica, ma su questo sono d'accordissimo, su quello che si diceva prima, che sia visto come una stella polare che guidi tutte le microazioni che si compiono. Qui si fanno solamente degli interventi così a caso, cercando di tamponare insomma un paese che crolla a pezzi, e così non ne usciamo. Uguaglianza, appunto, come avete sentito, perché magari quando avete sentito disuguaglianza, uguaglianza, avete pensato, oddio, insomma, la trasmissione nella quale insomma si parte con le solite cose di ultrasinistra su questi temi. Invece, come avete sentito, il tema è esattamente quello: l'uguaglianza di punti di partenza, quella che poi genera evidentemente meritocrazia, merito. Parifica i punti di partenza, no? tra chi ha redditi diversi e genitori magari con posizioni diverse, e permette di accedere a posizioni superiori. In definitiva, mobilità sociale, che Marco Gai mi sembra che sia piuttosto mancante in questo paese, assente. Purtroppo è mancante, perché probabilmente, e sono d'accordo, manca il punto di partenza uguale per tutti, cioè poter aspirare poi nel corso della propria vita, della propria formazione, della propria istruzione, del proprio lavoro, a raggiungere qualcos'altro che ci completi ed è un po' il principio che guida, mi permetto di parlare per le imprese, che guida chi fa impresa. Chi fa impresa tende sempre a crescere, a migliorare, ad operare in un mercato di concorrenza, perché la concorrenza è sana. Quando la concorrenza è fatta sulla qualità, sui tempi, sul processo, sul prodotto, è uno dei fattori scatenanti della competitività nostra interna e poi esterna, perché questo tipo di atteggiamento è quello che permette alle nostre aziende di crescere, di esportare, di realizzare qualcosa di importante. E questo paradigma deve essere poi, o deve partire dal nostro stato sociale, o deve essere poi riversato nel nostro stato sociale. Le condizioni devono essere uguali per tutti, anche se uno parte da una condizione di opportunità meno fortunata, perché deve sapere che raggiungerà quell'obiettivo, e chi fa impresa in Italia lavora duramente per raggiungere questo obiettivo, e il contesto certo che ti fa sentire un po' diverso da qualche nostro amico e collega straniero, dove la capacità, il saper fare, la buona volontà viene anche agevolato da un contesto a 360 gradi che ti fa capire una volta di più di andare nella direzione giusta. Su Twitter mi scrive Simone Bianco, dice: ma in quale passato da Mulino Bianco gli ordini sono stati creati per proteggere i consumatori? Non scherziamo. No, infatti non stiamo dicendo questo, è che teoricamente, come dire, gli ordini professionali dovrebbero fare esattamente questa cosa, è evidentemente una funzione che non svolgono. Nicoletta Farina invece su Facebook mi dice: come al solito si fa di tutta l'erba un fascio, le pensioni dei manager delle generazioni precedenti che volete tagliare non sono tutte uguali, a parte che non le vogliamo tagliare, insomma, però insomma, comunque, e quelle dell'industria privata sono state pagate dalle aziende versando fior di contributi. Sì, vero, però quelle pensioni là al momento non sono pagate sulla base dei contributi versati, ma sulla base della retribuzione, e il punto è esattamente questo, è un punto di diseguaglianza, non si è detto che vadano tagliate per forza, si sta facendo, cioè, meglio, insomma, magari sì, però insomma, diciamo, soprattutto forse quelle più alte, almeno c'è qualcuno che ritiene questo, però detto ciò, insomma, è evidentemente un ragionamento da fare, perché, ripeto, è un fattore di diseguaglianza rispetto a generazioni come per esempio la mia, insomma, tanto per dirne una. Alessandro da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, grazie dell'opportunità. No, io volevo riportare... Ma le pare, è un piacere. Sì, ma grazie, una sola cosa. Io sono figlio unico di impiegati statali, chiaramente ora in pensione, ho quasi 40 anni, e a un certo punto papà greco, mamma italiana, perciò comunque l'ho detto già tutto, dal punto di vista della crisi economica. A un certo punto comunque mi sono cercato un po' l'opportunità di lavorare all'estero, nel settore alberghiero, e grazie a Dio comunque in quel caso i miei genitori non hanno fatto, non hanno messo la barriera, perché l'idea di mio papà era di darmi il posto fisso appunto in banca, cosa che francamente non era il massimo della vita per quello che mi riguardava. Perciò ho scoperto una realtà completamente diversa all'estero, sia dal punto di vista del mercato del lavoro, sia dal punto di vista, cioè molto più facile sia lavorare. Dove ha detto Alessandro? Io ho fatto Cipro. Che dopo è andata in malora, perciò ho portato anche abbastanza fortuna. Allora ci dica, papà greco, mamma italiana, ha lavorato a Cipro, cioè... A Cipro? No, non è che è stato anche in Irlanda, non è che è stato anche in Irlanda, Alessandro. Guarda, se dico subito, sono stato in Kuwait e a Dubai, perciò in Irlanda okay, no, non esattamente, è leggermente meglio, ecco, dal punto di vista economico. Però quello che dico, soprattutto dal punto di vista lavorativo, lavorando senza un contratto a tempo indeterminato, cioè con questa chimera che uno va in pensione, cioè se ci andremo in pensione, e lavorando soprattutto con contratti di 1-2 anni a obiettivi, le garantisco che anche in delle aziende private in Medio Oriente c'è molta più competitività interna, perciò francamente si lavorava veramente bene con bonus mensili, non le parlo di top management ma di junior staff, in tutta sincerità. Perciò voglio dire che comunque poi sono tornato in Italia dove faccio comunque libera imprenditoria sempre nel settore alberghiero, e mi sono scontrato con delle realtà abbastanza difficili. Ovviamente, completamente diverse. 9 in punto. Facciamo anche qualche sms, va, perché ci è arrivato. Voglio rispondere a quello di Lorenzo da Varese, perché ogni mattina ne trovo uno così. Allora, ma tutte queste cose Grillo le dice da anni. Se lo dice lui non va bene, non ha la statura intellettuale, non è gradito a Confindustria, anzi, appena fa la pipì fuori dal vaso gli sparate contro. Siete ridicoli. Caro Lorenzo, vuol dire che lei questa trasmissione non l'ascolta, perché ospitiamo regolarmente deputati e senatori del Movimento 5 Stelle e li trattiamo esattamente come trattiamo gli altri del PD, del PDL, chiunque. Se dicono una boiata gliela facciamo notare, non sempre, non è che le becchiamo tutte, perché i politici un po' di tutte le parti, insomma, ogni tanto tendono a scafare da questo punto di vista, però insomma mi sembra che qua siano trattati con assoluto equilibrio. Poi magari mi sbaglio, ogni giorno però c'è qualcuno del Movimento 5 Stelle, un sostenitore del Movimento 5 Stelle che protesta per questa cosa. Io non riesco a capire, perché vi basta riascoltare le trasmissioni. Francesca ci chiama da Perugia, buongiorno. Saluti a tutti. Se ha la radio accesa, perché sento già un eco, se ha la radio accesa la spenga, mi raccomando. No, la radio è assolutamente spenta, fuori stanza. Ah, ok, perfetto, vada. Dunque, io ho ascoltato un passo del suo ospite, l'autore, il dottor Gai, se ho capito bene, autore di un libro... No, Ferragina, Emanuele Ferragina. Dedicato alle professioni e alle modalità di funzionamento di questo nel nostro paese. Io sono un avvocato. E se qualcosa che dirò non è in contrasto con il contenuto del testo, mi scuso, ma io il testo ancora non l'ho letto. Non l'ha letto. Diciamo che io vorrei intervenire su un punto fondamentale. Si sente spesso dire, ho ripetuto il vostro ospite, che le categorie professionali sono delle casse chiuse che si autoproteggono. Allora, io vorrei dire intanto che sono assolutamente d'accordo con il suo ospite che gli ordini professionali devono esistere per garantire il consumatore sulla qualità del prodotto immesso sul mercato e quindi sulla preparazione del professionista per tutelare i diritti e gli interessi di chi a lui si rivolge. Però dove non posso essere d'accordo è sul fatto che ormai le professioni, parlo per la mia naturalmente, siano delle caste chiuse. Intanto perché vi garantisco, il mio studio ne è un esempio, ci sono realtà professionali, noi siamo 8 avvocati, uno solo è figlio di avvocati, tutti gli altri veniamo da altre estrazioni e provenienze. E poi abbiamo un problema enorme nel nostro paese, che è la scarsa qualità sul fronte della preparazione di questi professionisti. Gli avvocati hanno combattuto una battaglia a volte strenua contro i mulini a vento, per ottenere attenzione dal mondo politico affinché le modalità di accesso alla professione fossero non contenute in ragione di numeri, ma fossero di qualità elevata in ragione di garantire Cara Francesca, guardi, facciamo una cosa, dato che l'intervento era complesso e denso. Innanzitutto le dico che nel libro di Ferragina, tra l'altro, ci sono anche, insomma, c'è anche raccontato questo aspetto dell'accesso e degli esami, e con queste percentuali che divergono in maniera di promossi e bocciati, diciamo così, che divergono in maniera drammatica da luogo a luogo del paese, a volte indifferentemente che sia sud, nord, insomma luoghi dove i promossi sono il 7% addirittura. Ferragina, una risposta all'ascoltatrice. Velocissimo. Primo, io sono contento che la signora, insomma, abbia uno studio nel quale c'è mobilità sociale. La realtà dei fatti è che se sei figlio di avvocato hai 3,5 volte più possibilità di accedere, di superare il concorso di chi non lo è con lo stesso voto di laurea. Quindi l'evidenza aneddotica è diversa da quella di sistema e bisogna sempre guardare i sistemi. La seconda è che sono d'accordissimo sul fatto della qualità, e io stesso nel libro dico, c'è l'esempio straordinario, un po' il concorso in magistratura, insomma gli esami per l'avvocatura sono stati cambiati, ma esistono ancora dei problemi, come si diceva prima, della non uniformità del risultato di accesso tra le varie zone d'Italia. Io vengo da Catanzaro, nel 1997 a Catanzaro su un tot di circa 2000 compiti solamente 6 erano diversi. Questo è un po' cambiato perché c'è stata una riforma nel 2006, però questo ce la dice tutta. Poi non possiamo lamentarci della qualità, e su questo io sono con voi su questo tipo di battaglia. Però gli avvocati devono combattere due battaglie: da un lato quella della qualità, che magari fanno anche bene, però dall'altra devono combattere sul fronte dell'accesso, perché se anche la signora si impegna in prima persona ad avere uno studio nel quale queste cose succedono, la realtà dei fatti è poi molto diversa, e anche gli avvocati sono una casta, chi ha un buon lavoro e chi è piazzato molto bene. Fabrizio da Torino, che però mi dicono essere il presidente dei giovani consulenti del lavoro, quindi gli chiedo di presentarsi con nome e cognome gentilmente. Ciao, sono Fabrizio Bontempo, presidente dei giovani consulenti del lavoro di Torino. Prego. Allora, intanto volevo salutare Marco Gai per... Evitiamo buon tempo, evitiamo le radio da periferia romana, vorrei salutare nonna, su, vada al punto per gentilezza. Allora, due punti: uno, che in Italia abbiamo diritti acquisiti e quindi chi ha non si può togliere e chi non ha non può prendere niente, e mi riferisco al discorso delle pensioni, dove chi percepisce delle pensioni, come io ricordo all'inizio del mio lavoro, i dirigenti bastava che versassero 3 anni di contributi per avere poi una pensione per il resto della vita. All'epoca si andava in pensione a 56 anni, 15 anni fa, quindi non è che parliamo di chissà quanto tempo. E noi stiamo pagando i contributi per poter permettere a questi soggetti di percepire la pensione. Secondo, mi rendo conto che noi giovani guadagniamo di meno, pagheremo più contributi, avremo meno disponibilità per poter vivere e percepiremo una pensione molto più bassa. Direi che siamo tutti contenti di questa cosa qui, e come giovani penso di ringraziare chi deve decidere per noi. Basta così. Però purtroppo, che dobbiamo fare, insomma, ormai così ci siamo accorti tardi che serviva un sistema contributivo, no, a tutti gli effetti. E voglio sentire anche Enrico, che ci chiama da Mantova. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei, prego. Ai suoi ospiti e agli ascoltatori. Ma io sono un 46enne che lavora, appartengo a quella categoria non paracadutabile, perché sono un addetto individuale, un agente di commercio, quindi sono lì, sono precario, per quanto possiamo definire precario anche la mia categoria. Sono rassegnato ad un destino che qualcuno ha compiuto per me, un destino per il quale non mi è stato chiesto nulla e non mi è stata data la possibilità di scegliere, e che poi sono gli stessi teorici di fatto del nulla, perché quando si teorizza su un nuovo welfare, su tutte queste questioni, non si tiene secondo me conto del fatto che ci sono già almeno 2 generazioni bruciate, cioè la mia e quella dei ventenni, che ancora oggi non sono in grado realisticamente di affacciarsi in modo, come dire, costruttivo al mondo del lavoro. Mio nonno nel primo del Novecento lavorava per sopravvivere, mio padre nella seconda metà del Novecento ha lavorato per costruire qualche cosa, io nella migliore delle ipotesi riuscirò a dare un'istruzione ai miei figli. A fare la stessa cosa che faceva suo nonno, cioè lavorare per sopravvivere sostanzialmente sì, però con la differenza che io ho consapevolezza di questo e pur non potendo imporre ai miei figli questo tipo di scelta, caldeggerò e lotterò con tutte le mie energie e tutte le mie forze perché possono costruirsi un futuro all'estero. Quando parlo di generazione bruciata, non dimentichiamo per esempio che negli Stati Uniti il college, quindi la nostra università, si finisce a 21 anni, e a 21 anni siamo entrati nel mondo del lavoro. Oggi in Italia mediamente a quanti anni si finisce l'università? 26, 27, 28, per poi avere che cosa in prospettiva? Di fatto nulla, perché insorgono gli ordini professionali, però voglio dire, alla fine non possiamo pensare ad una società fatta esclusivamente di notai, avvocati o quant'altro, abbiamo una società che è molto più articolata, quindi di fatto sono 2 generazioni già bruciate. Quando la mia generazione dovrà andare in pensione, sono generazioni sostanzialmente di morti di fame, perdonatemi il termine, ma realisticamente è questo di cui stiamo parlando, perché non parliamo di singole, di poche entità, ma parliamo del grosso della società. Grazie a voi. Mi piace, bell'intervento perché accorato, quantomeno. Marco Gai. Sono rimasto. Allora, che la situazione sia estremamente difficile e complicata per il futuro, direi che è quasi scontato dirlo. Però tornando al ragionamento dei nonni, questo è il nostro dovere oggi, questa è la nostra opportunità. E oggi qua, quando diciamo scateniamoci per costruire qualcosa per noi, per i nostri figli, per i nostri nipoti, perché non voglio essere frainteso, ma dire sempre siamo generazione bruciata, e questo mi sento con rammarico di dover dire, forse sì, però questo non ci esime dal fatto di darci da fare perché la prossima generazione non sia bruciata. Io credo che sia un compito che abbiamo, perché volenti o nolenti noi siamo classe dirigente di questo paese, noi abbiamo questo compito, ci stiamo costruendo l'essere classe dirigente, e così facendo dobbiamo provare passo dopo passo, atto dopo atto, a dare un contributo per cambiare le cose, perché sennò il declino può essere poi verticale a un certo punto, se non cerchiamo di invertire un po' di tendenza. L'ascoltatore ce l'aveva anche un po' con lei, Ferragine, su, dice, questi che disegnano i grandi sistemi di welfare. La realtà del fatto è che, se si vuole, in un paio d'anni quello di cui io parlo si può mettere in piedi, e bisogna tassare i patrimoni, bisogna tassare la ricchezza e detassare il lavoro, e bisogna prendere dei pezzi di soldi che oggi sono nelle pensioni più ricche ed utilizzarle per costruire un welfare più universalistico e più attivo. Io non penso che sia un problema di massimi sistemi, i numeri ci sono, io nel libro spiego i numeri, da dove prendere i soldi e come farlo. C'è un problema di volontà politica, c'è un problema di un governo che oggi è al potere e a difesa di queste casse delle quali parlavamo, che si arrocca e distrugge il resto. Il titolo del mio libro è Chi troppo chi niente, ma in realtà il titolo del mio libro dovrebbe essere Chi troppo e chi tutti gli altri, nel senso che in questo paese c'è una piccolissima fetta della popolazione divisa in varie caste, in varie corporazioni, non solo gli ordini professionali, anche i professori universitari conservano la professione per i loro figli, questo lo dico, no, a beneficio della mia categoria, e poi ci sono tutti gli altri che si sentono. La cosa più grave che stiamo facendo a questo paese, su questo sono d'accordo su quello che diceva Marco prima, la cosa più grave che stiamo facendo a questo paese è distruggere la speranza delle persone e distruggere l'idea che uno si possa rimboccare le maniche per avere un futuro migliore. Io sono partito dalla Calabria per andarmene a Oxford, ma non perché sono una persona eccezionale o più intelligente di tante altre, perché ho sempre lavorato duro e sono stato in posti dove mi è stato permesso di avanzare. Io vorrei che questo fosse garantito a tutti i miei coetanei nel mio paese. Poi chi ce la può fare ce la fa, chi si impegna di più ce la fa, e per gli altri cerchiamo di costruire un paese che gli garantisca una vita decente. Però non possiamo incatenare tutti quanti e appellarci sempre al fatto che le cose non possono cambiare. È durissima per tutti, però le soluzioni possibili ci sono, e non sono solo a livello macro, e dobbiamo batterci tutti i giorni nel nostro chi fa informazione, chi fa impresa, chi fa università, chi fa altro tipo di cose, per essere sulle cose giuste. A me piacerebbe che, di fronte alla sentenza della Corte Costituzionale di ieri sulle pensioni d'oro che non possono essere toccate, ci fosse una protesta, una protesta seria, invece non c'è, e i problemi sono questi. Allora, abbiamo recuperato l'avvocato di prima, Francesca da Perugia. Buongiorno di nuovo. Buongiorno. Ferma. Una domanda io per lei, in realtà, però dopo la viabilità. 9 in punto. Allora, mi scrivete su Twitter: tutti pensano ai nipoti chiacchiere, se non si abbattono le lobby e si tagliano le spese improduttive non si va lontano. Sì, le spese improduttive vanno tagliate. Raccomando, una questione di linguaggio, abbiamo dedicato una puntata intera alla questione delle lobby. Le lobby sono una cosa diversa dalle caste di cui stiamo parlando, cioè iniziamo a dare alle cose il loro nome, cioè sono gruppi di interesse e di pressione che possono essere di qualsiasi tipo, lo raccomando per una questione di linguaggio, possono avere anche degli interessi diversi, evidentemente, non necessariamente economici. Ci sono grandi lobby americane che si occupano, per esempio, l'abbiamo raccontato, di climate change, di cambiamento climatico. Quindi diamo le parole giuste, insomma, vogliamo chiamare corporazioni, caste, non chiamiamole lobby. Allora, l'avvocato Francesca da Perugia, eccomi. Ho una domanda, ma tanto mi risponderà di sì, io lo so a prescindere. Ma lei li paga i praticanti? Sì, quando, intanto quanto? Permetto che lo studio non è mio, ma è di mio marito. Noi gli diamo una... un emolumento, ma non un emolumento fisso, diciamo in proporzione al lavoro che loro svolgono in determinate pratiche. Sui praticanti 4,50 4,50 quanto? No, anche a volte anche migliaia di euro, perché no? Dipende dal contributo che loro hanno dato al lavoro della pratica, allo studio della causa. Sui c'era praticanti, Marco Gai che voleva dire. Sì, sui praticanti. Vorrei aprire praticanti. Solo dirvi una cosa: il praticante, breve. Alcuni li ignorano, li usano ignobilmente per fargli fare il lavoro di segreteria ed è un orrore. Ma se il praticante viene preso a studio per farlo studiare e dargli quello che l'università non gli ha dato, allora il praticante è un lavoro per noi e noi facciamo volentieri, perché lo seguiamo, perché gli insegniamo, perché lo facciamo studiare. Le do un dato quasi ridicolo. Nel nostro studio abbiamo avuto difficoltà per anni a trovare praticanti, perché si diceva che da noi la pratica era difficile, però i nostri praticanti l'esame lo hanno superato sempre tutti. Quindi è un problema di deontologia professionale, è un problema di correttezza dell'avvocato, non è solo un problema di categoria. Lo so, però ce ne sono tanti dei suoi colleghi che non sono corretti. Insomma, c'è una querella, mi permetta di dire, Francesca, e così qua chiudiamo con lei perché vorrei sentire anche qualche altro ascoltatore, mi permetta di dire questo, la funzione dell'ordine dovrebbe essere anche questa, in tutta sincerità, cioè non è che sì, allora essenzialmente di tutela dei consumatori, ma anche di gestione di queste cose qua, perché è fondamentale. Matteo da Salerno, buongiorno. Buongiorno, salve. Le volevo raccontare un po' come non si diventa farmacisti. Breve, perché abbiamo un minuto e mezzo. Sì, praticamente dopo aver fatto il tirocinio durante l'università bisogna fare un idoneità alla fine, che dura 2 anni. Non è retribuita naturalmente in una farmacia, quindi se decidono di fartela fare in una farmacia, diciamo, e poi sono state cambiate le normative per il concorso per vincere le nuove licenze del governo Monti. Mi scusi, c'è ancora quella cosa, i figli dei farmacisti che anche se non sono farmacisti possono gestire la farmacia, esiste ancora? Gliela possono cedere, cioè il padre può anche fare, ogni farmacista può avere una farmacia. Però i padri possono fare una società coi figli, quindi prenderne una seconda e poi il figlio ne può prendere una terza da solo. Anche se non è laureato in farmacia? No, per avere una farmacia devi essere laureato in farmacia, sennò puoi mantenere per 2 anni la proprietà, però poi viene messa all'asta se non sei farmacista. Perché prima era diverso. Sì. Prego. Praticamente però per il concorso, quindi per le nuove licenze, non è meritocratico, ma è per titoli, cioè la laurea vale un punto, la lode vale un punto. Se una persona ha lavorato in farmacia, ogni anno di lavoro vale un punto. La proprietà di una farmacia vale 10 punti. Quindi praticamente incredibile. Per un neolaureato io scopro cose di questo paese pazzesche. La proprietà di una farmacia vale 10 punti, solo la proprietà, quindi semplicemente. Sì, per un neolaureato è impossibile avere una farmacia. A meno che se non sei figlio di farmacia, hai i soldi, perché costano, certo, naturalmente. La ringrazio, mi ha anche aperto un mondo da questo punto di vista, perché era una cosa che non sapevo. Noi chiudiamo qua la trasmissione, ma magari sul tema, insomma, corporazioni, caste e non lobby, appunto, ci ritorniamo, perché è sempre un tema caldo. Io di liberalizzazioni continuo a sentir parlare troppo poco. Grazie a Marco Gai per essere stato con noi, a Emanuele Ferragina, autore del libro Chi troppo, chi niente, edito da Rizzoli, interessante, tratta da ampio spettro il tema. Un ringraziamento ad Alessandro Marcotulli in redazione e in assistenza, grazie a Pietro Lacorte qua in regia a Santa Margherita Ligure, Davide Ciocia, e io non so chi ci sia a Milano in regia, me lo stanno dicendo con la bocca ma non so leggere le labbra, e quindi chiudiamo qua, ci sentiamo se volete domani con Voto Antonio, altrimenti lunedì con 9 in punto. Ricordati! Mancano 24 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente. 9 in punto.